Buonasera, benvenute e benvenuti alla presentazione del libro La valigia sul letto, storie di figli e genitori separati. Questa sera con noi l'autore Elio Cirimbelli, che ringraziamo, in dialogo con Don Paul Renner. Visto che c'è un sindaco a portata di mano, sfruttiamolo. Grazie, buonasera. Buonasera Elio, grazie dell'invito. Mi scuso se andrò via prima, ma non perché la serata non è interessante, ma perché ci tenevo comunque per il rapporto che mi lega anche con Elio da anni. Intanto sono contento, vedo anche qui l'associazione scrittori, nel ribadire che insomma la nostra città è ricca di persone che scrivono, e questa è una buona cosa, perché scrivere raccontando agli altri qualcosa, delle esperienze di vita, ma altre cose importanti, non è per niente banale, anzi grazie di questo. E il tema è un tema che ne ha fatto una vita, Elio, ha dedicato la sua vita, perlomeno una buona parte della tua vita, con riconoscimenti chiaramente che sono andati anche oltre quella che è la città. E questa sera poi Don Paul Renner chiaramente avrà la capacità di introdurre il tema con più profondità, però per quanto mi riguarda due cose vorrei dire. Il primo, ne parlavo prima con Don Renner, noto una facilità a cambiare quando si trova una difficoltà davanti. E questa a volte lo si nota in qualsiasi situazione. A volte i giovani trovano una difficoltà e cambiano strada. Non vi dico la politica, come cambia. Ma anche nelle famiglie a volte, quando si arriva a un certo punto, a volte non si riesce ad approfondire, ad andare a provare insieme a passare quell'ostacolo. Ma poi se non si riesce, è chiaro, è giusto, è importante cercare di trovare altre soluzioni, quelle che ha raccontato anche in questi anni Elio, cercando di dare assistenza a tante famiglie, a tante persone che si sono trovate anche ad affrontare quello che è il momento del distaccarsi. Lo dico perché una città non deve essere distratta poi a queste nuove famiglie che si trovano poi in alcuni casi anche in difficoltà. L'avete già sentito tante volte, no? Padri e madri che nello stato poi che hanno nuovo si trovano in una difficoltà oggettiva, e più aumenta oggi una situazione cogente economica e più questa difficoltà emerge ancora di più. Parlavo con una signora che è venuta con grande umiltà, con grande dignità allo sportello dei cittadini alle 7:30 della mattina dal sindaco, dicendo: io sono una madre, una moglie, ci siamo divisi in famiglia e io adesso tra 2 mesi non ho più una casa perché mi hanno dato lo sfratto e non ce la faccio più. E io sono con mia figlia, ho portato la figlia e dico: cosa possiamo fare? Ecco, queste situazioni non sono situazioni solo che vengono analizzate su soggetti fragili, declaratamente dichiarati fragili, ma ci sono soggetti, persone, cittadine di questa città, uomini e donne, che diventano fragili nuovi, i nuovi fragili, sui quali questa città non deve girarsi da una parte, deve trovare delle soluzioni. Chiaramente quali sono le priorità di tutte le soluzioni? Questo è l'altro tema, no? A chi diamo prima una mano e come possiamo dare una mano? Io direi che di solito, insomma, si dice non si dovrebbe mai lasciare indietro nessuno, però questo è un tema sul quale, oltre che ad aspetti molto più profondi che verranno trattati, mette anche in evidenza una fragilità nuova nelle città che noi dobbiamo saper analizzare come amministrazione. Per cui mi fermo, grazie Elio, grazie Don Paul Renner per questa serata che sicuramente sarà un momento di riflessione per tutti noi. Grazie. Grazie caro Sindaco per queste parole che completano un po' un quadro che verrà descritto ancora questa sera. Grazie a tutti voi per la vostra presenza. E grazie a Elio per aver scritto questo libro che è un parto di una lunga esperienza, no? Un lungo rapporto con famiglie in difficoltà, con famiglie disfatte, famiglie ricostituite, famiglie che spesso non danno la priorità a chi la priorità meriterebbe, cioè appunto i bambini. perché la vita non è mai così com'è, ma come la prendiamo, le prospettive in cui ci poniamo. E devo dire che io, pur non avendo bambini, amo molto i bambini. Anche ieri ero contento con 13 chierichetti a Meltina, 2 a Flos, a Merano non avevo. E i chierichetti sono contenti con me perché gli porto sempre un cioccolatino e perché la messa che faccio io è breve, e ce ne ho altre 2, quindi non è che posso stare a perdermi in ciance. Però vedere i bambini felici è una gioia enorme, anche se non sono i miei. Ma forse neanche i figli di una coppia sono i loro. Non sono una proprietà, sono un prestito che viene fatto dalla natura, dal destino, dal buon Dio, diciamo noi teologi, un prestito, un investimento. Spesso nei battesimi dico: "Die Kinder sind eine Gabe und eine Aufgabe", sono un dono e un impegno, un dono e un impegno, o un dono impegnativo se vogliamo. Ieri avevo pranzo il mio figlioccio, il suo fratellino più piccolo e altri amici, e uno mangiava la tartare, quell'altro non voleva la tartare. Allora: "Ti va bene la pasta cacio e pepe?" "No, la voglio col pesto." "E fagliela col pesto." Queste piccole cose si può andare incontro, su altre no, perché stai seduto composto, adesso aspetta, sta parlando lui. Tutti noi siamo educatori e non ci rendiamo sempre conto di quali grandi occhi e orecchie abbia non il lupo di Capuccetto Rosso, ma ogni bambino. I bambini hanno delle orecchie e degli occhi enormi e notano subito le nostre disfunzioni, le nostre incoerenze, le nostre falsità. Io spesso dico: Pierino si sente dire la domenica mattina: "Pierino deve andare a messa." "E tu, mamma?" "Io devo stirare." "Tu, papà?" "Io devo lavare la macchina." Allora Pierino ricava il messaggio: ok, si va a messa finché non ci si può sottrarre da questa noia, e quando si è più grande si stirano i panni, si lava la macchina e così via. Ma è un messaggio, secondo me, fuorviante, perché, come diceva adesso il sindaco, essere modelli, aiutare anche a uscire dalla comfort zone, che spesso è illusoria. E Elio lavora da tanti anni con e per coppie che sono in difficoltà, ha un'esperienza, una qualifica come mediatore familiare, vive con dedizione questo impegno, che ci trova un po' su una sintonia, tra virgolette, pastorale, no? Prendersi cura delle persone, prendersi cura e aiutare le persone a conoscersi meglio, a trovare un linguaggio adeguato per rapportarsi in maniera costruttiva e non distruttiva. E in questo libro Elio ha forse raggiunto una maturità che nei libri precedenti non c'era, anche se erano interessanti e coraggiosi, tipo quello sui divorziati e risposati, che ha presentato anche ai papi che si sono succeduti. I papi cambiano, ma Elio è sempre con loro, li tampina, si fa ricevere, si fa fotografare con i papi, ma fa un bel lavoro, insomma, non odia mettersi in vista, per carità, però lavora bene, produce. Ho imparato da lui. Ho imparato da me, bravo. E con questo libro veramente tocca un capitolo aperto, passatemi l'immagine, tocca un capitolo aperto che è quello del ruolo, dell'importanza, del destino dei bambini, delle coppie che si separano. Perché a volte gli adulti si chiudono nel loro risentimento, nella loro rabbia, nella loro preoccupazione per il proprio futuro e vedono i bambini, lo dice bene Elio, o come alleati, no? O come testimoni, o come anche mezzi di, non repressione, ma di ricatto del partner. Ci sono delle vicende inimmaginabili di cui anche noi preti abbiamo molto spesso sentore, che dobbiamo accompagnare e così via, no? Ci sono delle situazioni di un dolore incredibile che a volte potrebbero essere evitate oppure, diciamo così, curate, guarite, migliorate con la buona volontà di tutti. Elio riesce a parlare in questo libro in una maniera profondamente sincera e devo dire, perché io lo critico quando occorre, l'ho fatto anche prima, no? Devo dire che ha trovato veramente delle perle di saggezza che nascono dall'esperienza. L'ho scritto ieri sul Corriere dell'Alto Adige, no? È riuscito in quell'arte difficile, per noi che amiamo parlare, che è l'ascolto. Saper ascoltare con attenzione in maniera empatica, perché una persona che si sente ascoltata riesce a buttar fuori veramente, riesce a esprimersi. Non sempre le si sa suggerire una soluzione geniale, una soluzione sapienziale, però già essere ascoltati aiuta a recuperare i fili di un dialogo che si era interrotto, che si era spezzato, che si era congelato. Ebbene, leggere questo libro fa capire molto sul mondo dei bambini, sul mondo degli adulti, sull'importanza che abbiamo di essere adulti, adulti. Adulti, adulti. Non prendetemela per una tautologia, no? Ci sono tanti adulti infantili che è una cosa pazzesca. Anche noi a volte abbiamo delle reazioni istintive, emotive, per carità, però l'adulto maturo è quello che sa essere se stesso anche nei momenti difficili, è quello che sa conservare, dice San Paolo scrivendo ai Galati, la enkrateia, il dominio di sé, l'autocontrollo. Mentre a volte sento dire in tanti contesti, ma io non volevo dire così, ma l'hai detto, e se l'hai detto quella parola, quel giudizio ti frullava nella testa, quindi forse dovevi prevenire, dovevi cambiare il tuo modo di vedere le cose, no? Noi, dicevo anche prima Claudio, come Chiesa cerchiamo di predisporre prima del matrimonio qualche incontro di preparazione, e quando diciamo a certe coppie sarebbero sei serate, ma sei matto? No, guardate che è proprio una cosa zippata, è un microchip, micro. Uff, vabbè, se è proprio obbligatorio, ti dicono. No? In genere l'80% sono contenti di questi corsi prematrimoniali e capiscono che non si deve dar tutto per scontato, no? E che forse la virtù che rende più possibile una vita in due, e poi in tre, quattro, cinque, dipende, non è soltanto l'amore, un concetto molto spugnoso, ma è la verità, essere veraci, essere sinceri. Essendo sinceri si arriva a confliggere, giusto? Perché si esprimono le divergenze di opinione, ma confliggendo ci si può chiarire, si può capire cosa per l'altro è veramente importante, cosa meno, e soprattutto sinceri con i bambini. Elio scrive, tra le altre cose, poi ti darò la parola, scrive che i bambini non hanno bisogno di genitori perfetti, ma di genitori presenti, autentici, attenti. E non esistono genitori perfetti, tranquillizziamoci tutti, sia genitori sia noi non genitori. Non esiste la persona perfetta, ma la persona che vuole migliorare se stessa è quella che ammette di fare degli sbagli. Il proverbio spagnolo afferma: solo l'imbecille non dice mai ho sbagliato. Chi ha sempre ragione è un nazista, nazista della peggior specie. La persona intelligente si mette in discussione, no? E cerca di capire dagli altri se sta pensando bene, parlando bene, muovendosi bene. Tante volte, io devo dire, imparo dai bambini delle cose stupefacenti. Perché i bambini ti dicono quello che pensano. L'adulto deve dirti: oh, che bella predica che ha fatto, professore, è stata veramente interessante. Poi dopo capiti al bar: che palle, non la finiva più oggi questo sermone, e così via. Invece il bambino dice: oggi hai parlato tanto però, eh? Il bambino te lo dice, non ci mette filtri. E questa assenza di filtri ci aiuta ad avere uno specchio importante di noi. Anche se a volte l'immagine che viene riflessa in questo specchio non ci piace. Ma allora non dobbiamo smettere di ascoltare il bambino, dobbiamo ascoltare noi stessi, no? Avete presente quella bella canzone? Ascoltati. Ascoltiamo Elio. Cosa ti ha obbligato a scrivere questo libro? Ma allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Non vi nascondo che sono non emozionato, ma di più. È anche l'età. Mi commuovo anche facilmente, scrivendo, non tanto scrivendo il libro, ma rileggendolo, ho faticato molto, ho preso molto tempo prima di rileggerlo e sistemarlo per la casa editrice, e, insomma, non è stato semplice. La confidenza che vi posso fare è che il mio primo titolo di questo libro era per me dalla parte dei bambini. Poi verso, dopo qualche capitolo, avevo navigato un po' in internet e avevo scoperto che c'erano già 3 titoli così, no? E allora dico, no, non va bene. Il secondo titolo, tramite un amico comune che noi abbiamo, un filosofo di Pavia, insomma, no? Claudio, no? Che aveva letto la bozza, mi suggerisce un titolo e mi dice, ma io lo titolerei L'amore spezzato, 2: infanzia divisa. E questo mi piaceva, e questo è stato il titolo che ho inviato alla casa editrice. Dopo poco tempo mi scrivono, mi dicono, no, questo è un titolo che L'amore spezzato vuol dire niente, vuol dire tutto, no? Non te lo impongono, ma me lo suggeriscono, ma tra virgolette lo impongono, perché è la casa editrice che fa i titoli, mi propongono questo titolo, La valigia sul letto, che è il titolo di uno dei capitoli, è un capitolo. E cosa mi ha spinto? A me ero giù, come sai, nel nostro rifugio in quel di Garniano, e avevo in mente di scrivere qualche cosa, ma nella mia testa, penso che te ne avevo già parlato in parte, volevo scrivere qualcosa sull'amore, no? E sul vero amore. Il titolo lì era, sempre nella mia testa, Impariamo ad amare. Sottotitolo, come diceva Totò, Nessuno è nato imparato, no? Poi ho cominciato a buttare giù qualcosa, ma insomma non veniva fuori niente. E poi sono tornato, cioè mi è ritornato in mente, no, siccome si parla nelle separazioni, ma anche fuori, ma anche a volte nello stesso diritto di famiglia, troppo di adulti e poco di bambini, ho detto affondiamoci un po', no? E buttiamoci proprio a pesce e parliamo dei bambini. Questo è stato il motivo che mi ha spinto a parlare di loro, perché in questo libro scrivo quello che ci dicono i bambini e le bambine nei gruppi di parola che noi abbiamo in ASDI, gruppi di parola per figli di genitori separati, e naturalmente racconto quello che ci dicono le coppie, le persone che vengono da noi. Nella seconda parte, invece, è una parte molto, molto tosta. C'è la testimonianza di 6 figli di genitori separati che raccontano come hanno vissuto la loro separazione quando i loro genitori, appunto, si erano separati. Mi ha colpito molto quello che tu dicevi quando tu hai parlato di ascolto, quando tu hai parlato di verità. Io, Don Paolo lo sa e molti amici presenti lo sanno, io è da tanto che dico che se il buon Dio o chi insomma ci ha creato con una sola bocca e 2 orecchie, forse qualcosa vorrà dire, no? Lo diceva Aristotele. Vabbè, insomma, è rubata da Aristotele. E perché è così, no? Forse noi tutti fatichiamo ad ascoltare, perché in una società come questa, dove prevale il dio del culto, questa egolatria sfrenata, fatichiamo ad ascoltare e invece ci gongoliamo nell'ascoltare noi stessi, per dire oh che bravo che sono, oh che bravo. Anche noi operatori qualche volta, no? Però lì bisogna imparare, ci vogliono anni e anni di esperienza, mettere da parte l'ego, che ogni tanto è quella brutta bestia che viene fuori. Parlando poi di verità, nelle separazioni, qui ci sono anche degli avvocati, e c'è anche un amico avvocato che è da 40 anni con noi, che si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, sappiamo tutti che esistono 2 verità. Però noi dobbiamo pensare alle priorità. Perché la priorità è quella, appunto, che deve riguardare i soggetti più deboli e più fragili, che sono i bambini. Su questo tema della verità, ad esempio dell'ascolto, a pagina 22 porti questa affermazione: ascoltare senza correggere. I figli devono poter dire tutto, anche ciò che ci fa male. Anche il loro non capisco è prezioso. Non forzare il perdono nella comprensione. Non hanno l'obbligo di approvare, hanno il diritto di attraversare il loro lutto. Non fare della verità una lezione morale, ma una narrazione affettuosa che dica: ti sto dicendo tutto perché ti rispetto, perché sei parte di me. Questa dimensione del rispetto mi pare che la declini più volte nel libro, il rispetto dei bambini che hanno il diritto di sapere, anche perché loro intuiscono che qualcosa si sta lacerando, qualcosa sta sfumando. È inutile dirgli no, no, tutto va bene, e a un certo punto trovano la valigia sul letto, la separazione è fatta e loro si trovano davanti a un ostacolo. No, ancora, sempre, pagina 23, non proteggeteli dalla verità, proteggeteli dalla solitudine. Non dite loro che nulla cambierà, dite loro che l'amore resta, non perfetto, non sempre semplice, ma reale. E questa è una scuola di amore importante per i bambini che hanno paura che il loro universo si sgretoli facilmente. Uno degli episodi che racconti, una famiglia dove i due figli alla fine vengono divisi e uno dei due finisce in una località a 250 chilometri da quella di residenza. Per noi adulti, se conviene, cambiare città può essere positivo. Per un bambino che ha le sue piccole sicurezze nella cerchia degli amici, i vicini, la nonna e così via, questi strappi sono lacerazioni mostruose. Sì, soprattutto, permettimi se ti interrompo, soprattutto in questo capitolo affronto il fatto che i bimbi sono due, che uno rimane con la mamma in questo caso, l'altro rimane con papà, no? Adesso io dico una cosa. Guardate, credetemi, quando noi ci troviamo di fronte a queste coppie che, ok, decidono di interrompere la loro unione, sia questa stata un'unione di matrimonio o di convivenza con dei figli, noi dobbiamo, ecco, metterli nelle condizioni di capire e di sentirci, di capire che sono ascoltati, ma soprattutto che non sono giudicati. L'abbiamo nella scritta nostra sulla parete all'ASDI da sempre, no? Che la prima forma di aiuto è l'ascolto, no? E se noi riusciamo ad aiutarli nelle loro fatiche, io credo che in 40 anni chi mi conosce sa che non ho mai usato la parola colpa, io le chiamo fatiche. E allora noi li dobbiamo aiutare nelle loro fatiche a dire ok, è finita tra di noi, ma, scusate il gioco di parola, noi li dobbiamo aiutare e deve passare questo forte messaggio che ci sono dei legami che durano tutta la vita e che sono i legami tra mamma e figli, papà e figli. In un giochino che noi facciamo con i gruppi di parola per bambini, che sarebbe troppo lungo spiegare, ma il senso è subito fatto, noi diciamo ai bambini: tu cosa vuoi fare? Vuoi fare il giudice? Sì. Tu cosa vuoi fare? Io voglio fare il figlio. Tu? Ma io voglio fare la mamma, io voglio fare il papà. Bene. Diamo loro dei fili, no? Dove ci sono dei fili che legano i bambini tra di loro, i fili che legano il bambino alla mamma, i bambini al papà e i fili che legano mamma e papà. E noi chiediamo al giudice, credetemi, sono figli di genitori separati, ma non sono preparati, no, da noi. Noi chiediamo solo al giudice, secondo te cosa succede nella separazione? Il giudice che filo taglia? Secondo voi la risposta qual è? Il figlio taglia solo ed immediatamente il filo che lega mamma e papà, ma non il filo che lega loro a mamma e loro a papà. Hanno molto da insegnarci. Insomma. Uno dei problemi a cui accenni nel tuo libro è che addirittura i bambini, come spesso anche nel caso di vittime di abusi sessuali e così via, si sentono i colpevoli della separazione. Quindi si fanno la causa di quella crisi, di quella separazione. Questo purtroppo è un fenomeno che viene sottovalutato, ma che scatta proprio perché davanti a questo imbarazzo si guardano dentro e dicono: forse sono stato io che non vado bene a scuola, sono stato io che li ho fatti preoccupare, sono stato io che li ho fatti arrabbiare. Come affrontate questo problema? Allora, questo è un fenomeno che esiste, E qui, ma già anche anni fa, quando, anche nel libro Mediatore, raccontavo alcune vicende di figli adulti, no, che magari all'inizio pensavano di aver preso la separazione in modo, insomma, abbastanza sì sofferente, ma così, e poi purtroppo hanno avuto poi delle ricadute più avanti. Qui ci sono anche degli illustri psicologi o psicologi. Noi dobbiamo aiutare i genitori quando vengono, o perlomeno quando entrano nella consapevolezza che tra loro è finita come unione, dobbiamo aiutarli a dire che cosa dire ai loro figli, no? Io avevo preso spunto ancora, qualcuno di voi se la ricorda, con l'Olivero Ferrari, insomma, con psicologi che avevano una grande esperienza in questo, e dicevo, ritornando alla fatica, guardate, voi potete imparare anche a memoria le stesse cose che volete dire, ma se le dite separate, in modo separato, ai bambini non passa immediatamente quel messaggio dove vedono insieme mamma e papà che saranno mamma e papà per sempre, ma ai bambini scatta quel meccanismo per cui cominciano ad interrogarsi, a dire ma chi è il colpevole, chi è la vittima, chi ha sbagliato, chi è il cattivo e chi è il buono. E qui si corre il rischio che i bimbi si portino dietro o dentro, no, quella grande emozione, nel senso anche negativo, ma sono stato io forse, no, che ho combinato qualcosa. Che, ecco. Ma questo tra l'altro se lo dicono anche perché purtroppo noi genitori parliamo assai poco, sì tra di noi, ma anche con i nostri figli. Io, non occupandomi solo di separazioni, ma qualche volta insomma ho anche degli amici che mi raccontano, amici che vivono con il proprio partner, che mi dicono ma abbiamo difficoltà, no, con i ragazzi, uno fa questo, quell'altro fa... Io nel mio piccolo, forse con immodestia, dico ma scusate, avete mai parlato voi a raccontarvi come genitori? No, dico provate un po', no, a raccontarvi come genitori, perché non dobbiamo noi far vedere ai nostri figli che siamo, no, stati perfetti, che non abbiamo mai sbagliato, che non abbiamo combinate certe cose. Provate a raccontarle e questo sarebbe di grande aiuto. Un motto che tu proponi da tanto tempo è quello del separiamoci insieme, perché molto spesso non è la separazione in sé l'evento doloroso e drammatico, ma il modo in cui avviene. E se i due continuano poi a farsi dispetti, a litigarsi, a vivere più nei tribunali che in altri contesti, a non valersi della mediazione e così via, questo è molto triste, perché si creano degli asti, si creano delle avversioni terribili che ricadono in maniera amplificata sui bambini, che sanno fiutare l'aria in una maniera estremamente sensibile, no? Quindi separiamoci insieme vuol dire ok, abbiamo capito che tra di noi è finita, però cerchiamo di restare persone civili, come dicevo prima, adulti, no? Che non si azzannano, ma che stabiliscono dei rapporti sereni, chiari e si rispettano perché chi riesce a rispettare il prossimo manifesta un rispetto per se stesso. Gesù diceva ama il prossimo tuo come te stesso, se tu sai amare il tuo prossimo sai amare anche te stesso, altrimenti se non ami il prossimo lasci sospettare che tu non ami nemmeno te stesso. Cito da pagina 113, un bambino con parole che valevano un intero libro, ha detto «Io non voglio sapere chi ha ragione, voglio solo che smettano di usare me per litigare». Perché tante volte i bambini vengono trasformati in messaggeri, no? Non è che si dice «vai a dire a mamma così», no? O «vai a dire a papà cos'ha», no? Però, vedi, io ti faccio questa cosa qui, mentre mi sa che dall'altra parte non ti viene fatto. Usare i bambini si sentono usati, e siccome non sono oggetti, non sono mezzi, ma sono uno dei fini principali del matrimonio, è veramente svilente se li si usa come mezzi per litigare. E questo succede sempre spesso, o no? Succede spesso. L'altro giorno, l'altra sera, ero a Trento, alla libreria Ancora, a presentare appunto il libro, e una studentessa universitaria, tra l'altro figlia di genitori separati, fa una domanda, no? Dice: ma se lei riuscisse a sintetizzare il suo libro con tre parole, cosa direbbe? E allora mi è venuto veramente dal cuore, no? Ascolto, rispetto e verità. Per rispondere alle tue considerazioni, noi, torno a dire, ci sforziamo di aiutare la coppia dicendo anche: guardate, poi fuori di qua fate quel che volete, poi non è che noi possiamo venire, no? Però ci sentiamo di incoraggiarvi e dire ed evitare tante piccole cose, ma che per i bambini sono grandi cose. E lì credo di averci fatto un capitolo: evitare, quando ci si separa, i doppi compleanni, le doppie comunioni, le doppie cresime, i doppi regali, tutto doppio, no? Che apparentemente per i bambini può sembrare, perché giustamente devono anche difendersi, no? Magari vantarsi e dire: ma io ho due case, no? Ho due doppi regali, così. Ma noi poi questo lo sperimentiamo ascoltandoli nei gruppi di parola, perché nei gruppi di parola si parlano tra loro e si raccontano, no? Io ricordo di un bimbo che era... I gruppi sono formati da tre età diverse, no? 6, 11, 11, 13, 13, 17. Un bimbo che aveva 11 anni, che era un po' grande rispetto ai piccoli, però insomma dovevamo in qualche modo non escluderlo. E lui raccontava ai suoi compagni di viaggio che i suoi genitori erano separati da sempre, forse lui aveva un anno o due quando si erano separati, entrambi avevano le rispettive famiglie, nuove famiglie. Ecco qui una chiosa. I bimbi ci dicono: noi vogliamo solamente sentirci amati dai nostri genitori, anche se mamma è di là e papà di qua. Chiudo questa chiosa. E questo bimbo diceva: i miei genitori, e io soffro tremendamente, e piangeva finché lo raccontava, non si sono mai parlati e non si parlano ancora. Sono sempre messaggi e mail. Perciò capite che, insomma, che esempio possiamo dare, no? E come possiamo aiutare. Tanto è vero che quando nell'ultimo incontro, perché sono quattro gli incontri, prepariamo i bambini a scrivere una lunga lettera, che poi lo riportano, no, su una lavagna, dove ognuno dice qualcosa, no? Perché nell'ultima ora dell'ultimo incontro vengono i genitori. E la paura dei bimbi, di qualche bimbo, è: oddio, non mi riconoscono, no? Io ho scritto... Questo bimbo, in un primo momento, aveva scritto quello che sto dicendo, però all'ultimo momento ha voluto... Non se l'è più sentita. No? Voi immaginate la sofferenza. La cosa positiva, perché bisogna dire anche questo, come dicevo prima, no? Vogliamo sentirci... Però la cosa ancora, secondo me, che rincuora è questo: che bello vedere i miei genitori qui, che finalmente parlano, sono qui per me e non per loro. Una domanda interessata nasce da un passaggio che trovo a pagina 84. Scrive Elio: credo che Dio, qualunque immagine abbiamo di Lui, non abiti le famiglie perfette, ma quelle che si cercano, quelle che cadono e si rialzano, quelle che non sanno come fare ma ci provano, e credo che l'ascolto profondo, quando sincero e gratuito, sia già una forma di preghiera. La domanda interessata è questa: ma secondo te una famiglia credente, sposata in chiesa, ha più possibilità di durare di una coppia o famiglia laica non sposata in chiesa? No. Lo dico con molta... Lo sapevo, ma l'ho sentito. Sì, no. Guardate, cioè, io ho avuto situazioni, insomma, di... Adesso, per carità, spero di non essere frainteso, no? Di chi anche apparteneva a particolari movimenti. Dio mi salvi dai movimenti. Ma insomma, no. Tu che sei sempre in movimento. No, va bene, insomma... Se ti ricordi, c'era quella poesia, quella preghiera sulla famiglia di Papa Giovanni Paolo II, sulla famiglia, no? Dove diceva, adesso cerco di sintetizzare, ma tu sei il prete e mi puoi correggere, prego il Signore che vi dia la grazia, no, attraverso il sacramento del matrimonio, di superare le crisi, no, che, ecco, per carità, è una grazia. No, io non credo che perché io forse, grazie a Dio, grazie anche a me, era tanta esperienza, ho fatto un lavoro anche molto interiore, molto, molto, molto forte, molto potente, cosa che anche le coppie o le famiglie fanno. E se ci ricordiamo quello che dicevano le nostre mamme, no? O le nostre nonne, no? Il matrimonio, no? È la tomba dell'amore, ma non lo dicevano nel senso negativo, era in senso positivo. Io dico che l'errore che a volte facciamo o che fanno tanti giovani coppie così, è quello di vedere il matrimonio come un punto di arrivo, un matrimonio è un punto di partenza o un'unione, insomma, no? E tutto va seguito, va coltivato. Io ricordo la coppia dove entrambi appartenevano ad un certo movimento, di cui giustamente non è corretto che io dica quale, movimento cattolico, che lei aveva deciso di separarsi, no? Lui non voleva assolutamente, e lui si affidava al buon Dio, no? Lo dico così, con rispetto, sperando, insomma, che Dio risolvesse i problemi. Ma Dio non ci risolve i problemi, no? Se noi non ci guardiamo dentro, possiamo stare all'esame di coscienza, ma se noi non ci guardiamo dentro non cerchiamo, quando siamo aiutati, no, di uscire da questa gabbia, no, che è il ruolo della vittima, no, e costantemente facciamo la vittima, corriamo il rischio che la vittima non si metterà mai in discussione, no? Ma io non posso affidare al buon Dio tutto, insomma, lui ha ben altre cose a cui pensare, perciò, insomma, scusa la franchezza, ma insomma... No, ma guarda, sai benissimo, insomma, a questo punto siamo sulla stessa lunghezza d'onda, quando vedo delle coppie in crisi che dicono ma andiamo in pellegrinaggio, sì, è un aiutino, ma ci sono degli aiuti un po' più specialistici, bisogna essere estremamente onesti, ci sono esperti di mediazione che aiutano a trovare un dialogo. Io molte volte le coppie che sposo dico, se ogni giorno pregate una preghiera insieme, o se vi impegnate a far l'uno una preghiera per l'altro, anche in separata sede, è un piccolo aiuto per sapere che l'altro mi vuol bene, ci tiene a me, anche se magari quel giorno ha il muso lungo. Posso rubarti un secondo il mestiere? Sì. Quando voi sposate, la coppia si sposa in chiesa, no? Adesso non so se fa parte di un codice proprio di diritto canonico, dire finché morte non vi separi. Ecco. Io agli amici preti, quelli preti particolari, dove qualcuno mi chiedeva anche anni fa, no, ma secondo te cosa diciamo a queste coppie qua quando si sposano? No? Che io dico, a qualcuno scrivo anch'io qualche messaggio, no? Dico, pregate il Signore che vi dia la grazia di invecchiare insieme. Perché dire finché morte non vi separi mi sembra un po'... Ecco, la morte si scioglie però il vincolo anche sacramentale, quindi c'è una precisione, se vogliamo, canonica, no? E veniamo sempre più a incontrare nuove famiglie che vengono da altri paesi, da altre culture, ah, sì, così via. E hai anche tu l'impressione che spesso loro abbiano un senso della famiglia che ricorda quello nostro 40-50 anni fa? Cioè una famiglia più coesa, una famiglia su cui si investe molto? No, io ricordo che ho, quello che sento, allora noi abbiamo, brevissimamente, abbiamo iniziato ad occuparci naturalmente delle famiglie, chiamiamole tradizionali, poi delle patchwork family, no? Famiglie dove ci sono unioni, no? Con nuovi partner che a loro volta hanno avuto famiglie, figli e quant'altro, poi delle famiglie dove magari c'è una malattia, delle famiglie dove c'è magari un figlio disabile, e poi in ultimo ci siamo occupati, e ancora oggi ci occupiamo, delle famiglie cosiddette interetniche, che non sono italiani tedeschi come da noi, no? Lì va detto con chiarezza che ogni famiglia che nasce o che noi incontriamo è una risorsa, no? Però noi ci siamo accorti che queste famiglie comunque a lungo andare presentano delle criticità. E non sono legate alla religione, non tanto a quello, ma sono legate proprio alle loro culture, a quando magari conoscono la famiglia d'origine, no, dell'uno o dell'altro. Quando, ecco, lì ecco, io ricordo molto, molto, abbastanza triste, penso a una coppia l'anno scorso che si erano rivolti a noi, entrambi erano erano due albanesi, no? con religioni diverse, ortodosso e musulmana o viceversa, e a un certo punto lei aveva deciso di separarsi perché aveva un marito violento, noi non ci occupiamo dove c'è una violenza, insomma, fisica e quant'altro, ma dove c'è una violenza psicologica, insomma, cerchiamo di occuparsi. Erano venuti loro spontaneamente, prima lei, dopo lui, li abbiamo invitati insieme. E io mi sono sentito dire da questo, che mi guarda tranquillamente in faccia e mi dice: ma lei sa che è la natura stessa che dice e ci dice che la donna è inferiore all'uomo? Però permettetemi di dire una cosa. Io 40 anni fa vedevo coppie che andavano in crisi e molte volte erano militari del sud che sposavano ragazze altoatesine, molto più libere, più emancipate, ma dico nel senso buono del termine, naturalmente. E questi venivano disperati, dicevano: ma mia moglie, io vorrei che stesse a casa, che portasse i figli, no? Invece lei va a lavorare, quando finisce il lavoro va a farsi l'aperitivo con le amiche, insomma, e questi erano in crisi, in dialetto, non so quale, si dice patocca, insomma, no? E ci portavano questa esperienza. Oggi succede la stessa, io vedo la stessa cosa nelle famiglie interetniche, no? Dove c'è un tipo di cultura, come ho riferito anche prima, dove insomma, non riescono ad accettare che la loro moglie abbia amicizie frequenti, e tra l'altro sono credo che in Alto Adige siamo già al primo posto di separazioni tra famiglie interetniche. Insomma. Però molto spesso, seppure con modalità diverse, famiglie di altri paesi hanno un forte senso di coesione, di gruppo e così via. Per questo anche stare molto in famiglia, così, che era un tempo anche da noi lo stile, diciamo, più normale, no? E sicuramente quando queste famiglie si aprono e si confrontano, possono maturare nuovi stili, però ci vuole tempo, perché anche per dire i nostri che un tempo andavano in America o così via, facevano un gruppo a parte, facevano fatica a integrarsi, e l'integrazione non deve mai essere assimilazione, questo è evidente, e vediamo casi molto molto diversi, no? A Meltina un chierichetto nigeriano, a Terlano ho preparato due ragazzini nigeriani anche alla battesima, alla prima comunione, e i genitori li seguono molto, ci sono sempre. E tu sai che il bambino più grande che ha 12 anni, il telefonino, quello piccolo no, perché si passa tramite mamma, tramite papà e così via. Quindi c'è un senso della famiglia, se vogliamo, molto controllata, molto gerarchica, ma è uno stile di famiglia così. No? Adesso io non voglio essere il tuttologo, insomma, così, però penso e mi permetto di dire che forse dipende anche da che tipo di etnie, no? Certo, sicuramente. Perché anche... Da che tipo di cultura? Ad esempio, ci sono culture dove l'anziano è e rimane sempre il saggio nella famiglia, no? Che non vuol dire patriarcato, non vuol dire no, però insomma si fa riferimento, no? Ecco, forse dipende, insomma. Siamo una società multilevel, lo si vede tra città e paese, lo si vede tra pianura e montagna, no? Ci sono dei gap culturali molto, molto, molto acuti, e questo bisogna prendere conto. E per questo è importante, ritorno a un tema che abbiamo toccato, l'ascolto attento per capire dove si trovano queste persone, no? Con chi sto parlando. E soprattutto realmente. Soprattutto noi non avevamo pregiudizi, capisci? Questo senz'altro. Perché anche quello va messo in conto. Io non mi vergogno di dire qualche volta, insomma, no, io qualcuno provo un attimo di e poi dico, ma Elio, cosa stai facendo? No? O meglio, cosa stai pensando? Perché a volte, no, ci siamo portati a... Ti è mai venuto di cacciare fuori qualcuno dallo studio? Tanti anni fa, quando si parlava della malattia che unisce e non della malattia che divide, perché a volte succede, ahimè, che se si ammala un membro della famiglia, e in questo caso prevalentemente, insomma, quando si ammala una donna, l'uomo fatica moltissimo a rimanere, no? E ad accettare la propria moglie o la propria partner malata. Io mi ricordo, ecco, di un tizio che mi ha... Può dire, mi ha fatto schifo? Mi ricordo, tra l'altro aveva anche una menomazione alla mano. Insomma, lui era venuto da me, scambiandoci per un club di cuori solitari, perché noi facevamo in gruppi anche di auto mutuo aiuto, e con una così, no, così proprio... Cioè, ma io ho mia moglie che sta morendo in ospedale, ne avrà per poco, io avrei bisogno, insomma, di una compagna... Non dico altro, insomma. Non l'ho preso a calci nel sedere, però, insomma, mi sarebbe venuta voglia di farlo. Insomma. Ha sbagliato agenzia, insomma. No, però, insomma, voi capite che, insomma, in 40 anni son migliaia, no? Questo libro perché mi ha messo in crisi? Perché io la notte mi svegliavo, pensavo, ma e domani cosa scrivo? No, poi ti chiudi gli occhi, sei lì, pensi, ripensi... E allora strappi un capitolo, lo rifai, però alla fine, dai, a parte il mio periodo, insomma, di grande destabilizzazione psicologica, no, ho visto, lo dico con orgoglio, dai, credetemi, non con presunzione, finiti i tempi, insomma, di quando io ero un po' troppo turbo, un po' troppo presuntuoso, c'è tanta roba lì, una roba vera, insomma. Leggendo il libro di Elio mi è venuto in mente Mino Milani, La realtà romanzesca, no? Che dice: la realtà è più vivace di un romanzo, no? In un romanzo non riesci a metterci la fantasia che la realtà ti porta ogni giorno quotidianamente a incontrare, no? E credo che un grande merito di Elio sia anche quello, pensando alla sua biografia, di essere stata una persona toccata da questo problema della separazione, che poi ha avuto una fortuna cosmica nel trovare Helga come adesso attuale moglie, che è veramente Santa Helga, la chiamo io spesso, no? E è riuscito a fare di una potenziale sconfitta un motivo di rinascita, di leggersi dentro, di ripartire con nuovi parametri e così via. Quindi non parla soltanto per uno studio fatto, ma parla dell'esperienza personale. Questo è anche oro, è qualcosa di prezioso che ci sia questa resilienza di non lasciarsi tirare giù da una situazione triste, difficile, tutto, ma sapersi rialzare, come è scritto qui, le famiglie, Dio sta con le famiglie che sanno rialzarsi. Se avete qualche domanda piccante per Elio, non per una nuova compagna o un nuovo compagno, abbiamo capito che non è la sua tipologia, non è il suo ambito, ma se avete qualche cosa che vorreste scambiare con lui? Quando ho letto il titolo, La valigia sul letto, io ho pensato alla valigia dei bambini che di volta in volta devono passare da una famiglia all'altra. Invece, da quel che ho sentito, la valigia sul letto è la valigia dei genitori. No? No, è la valigia dei bambini? Allora, non è, qui c'è qualcuno non più giovane come me che si ricorderà, e c'è l'amico David che sorride, no? Si ricorderà la canzone di Julio Iglesias, no? Se mi lasci non vale, no? Vabbè, non è quella valigia lì, no? Lì c'era un tradimento, lei lo aveva tradito e a un certo punto la lascia e lui si mette a... No, allora... La valigia è un simbolo molto forte, perché tutti sappiamo, chi c'è passato, chi non c'è passato, chi ha degli amici, dei conoscenti o dei familiari, che là dove c'è una separazione, per fortuna ci sono due case, a volte non ce ne sono due, ma vabbè, diciamo, immaginiamo che ci sono due luoghi, e dove i bambini o il fine settimana o durante la settimana si spostano, no? E la valigia è pronta, per, oggi si chiama troller, no? Si chiamerebbe, non valigia, dove i bimbi mettono dentro, non so, il pigiamino, i giochini, lo sacchiotto, così, ma al di là di questo mettono dentro le loro emozioni, no? E è un simbolo molto forte. Provate a chiedervi, così insomma interloquiamo un po', la simbologia proprio della valigia sul letto. Cosa rappresenta il letto in una famiglia? Il lettone, no? Quando i bimbi si svegliano verso mattina e si fiondano nel letto. Cioè, è un simbolo molto forte, no? Ma è così. Però noi puntiamo molto a pensare ad una valigia che carica, intrisa di emozioni, di cose non dette, cose forse che verranno dette, perché è così. A volte c'è la vulgata, no? Dove si dice sono i bambini sempre con la valigia in mano, no? Sempre col pacchettino in mano, no? Poi, se mi permettete, dopo mi taccio, come si usa dire, in questo libro ho cercato anche, credo attraverso un capitolo, di interrompere quel meccanismo perverso per cui quando ci si separa deve esserci necessariamente uno che vince e l'altro che perde. Le separazioni siamo tutti perdenti. E poi anche quello di dare per scontato, in senso negativo, che necessariamente i figli di persone separate o divorziate devono avere dei problemi. E questo è semplice da spiegare. Se noi abbiamo un adolescente che ha i problemi dell'adolescente perché cresce, insomma, se è inserito in una famiglia unita si dice ma sì, dai, sta crescendo, no, i problemi. Se questo benedetto ragazzo invece è figlio di genitori separati, molte volte, forse troppe volte, si dice è perché i suoi si sono separati. Ma come diceva Don Paul prima, la chiave di lettura per sapere se i figli avranno dei problemi non è la separazione in sé, ma è quello che succede quando i genitori si separano. Doppi regali, doppi cresimi, doppie, tutto doppio, insomma. Volevo intervenire su quel momento del raccontare, di dire ai figli che ci separiamo, di dire la verità. Io vengo da un'esperienza diversa, ma i figli sono sempre figli. Qualunque cosa succede, loro hanno un lutto, un dolore, e ne parlano con i genitori. Io faccio volontaria al Papavero d'Ormont, che sostiene il reparto di cure palliative dell'ospedale di Bolzano. Quando c'è un lutto è la stessa identica cosa. Per i figli, per quello lo abbino, è proprio assolutamente la stessa cosa. C'è un lutto, i genitori hanno paura di dire la verità, come quando c'è una separazione. Invece i figli hanno non solo il diritto di sapere la verità e i genitori l'obbligo di non ingannarli, ma i figli hanno una grande capacità di superare qualunque cosa quando sanno che sono lì i genitori che non li imbrogliano. E nel momento in cui un genitore, per proteggerlo, gli dice una bugia, mi sapete dire da chi va quel bambino quando ha una domanda che mette in imbarazzo il suo genitore? Da nessuno che saprà dargli una risposta per lui, con l'amore che un genitore può avere a lui. E loro sono capacissimi di superare tutto se sanno che la mamma gli ha detto la verità. Non possono mai perdere questa assoluta fiducia, perché sono in grado di superarla se la mamma glielo dice, se il papà glielo dice e se sono lì. Non c'è niente che non può fare un bambino, ma devono essere genitori che loro sanno. No, io lo chiedo alla mamma, io lo chiedo al papà, vuoi scherzare? Certo che me lo dice. Ma devono essere sicuri, altrimenti perdono, andranno a chiedere ad altri e nessuno potrà dirle con lo stesso amore di un genitore. Perciò sono assolutamente d'accordo che anche per una separazione i figli sono lì per ascoltare i genitori e anche le loro difficoltà, e sono disposti ad aiutarli, a stare vicino, ma non devono essere delusi, pensare non mi ha detto la verità, perché da quel momento lì in poi non sanno più da chi andare. Scusate, grazie, l'ho tirata lunga. No, veramente, allora, adesso mi permetto di dire, va bene dire la verità, però anche lì con molta attenzione. Qualcuno magari non sarà d'accordo tra di voi o con me o così. Quando, ad esempio, si scopre o si dicono che c'è una nuova relazione, c'è una nuova storia, così, no? Noi invitiamo a non raccontare questo, perché no, si crea una situazione di vittima colpevole. Io ricordo, perché le domande che noi spesso facciamo alle coppie quando vengono, no, da qualche tempo separate, così, ci raccontano che i figli stanno male, che i figli vogliono portare i figli dal pedagogo, dallo psicologo, dallo stregone. Poi senti quello che si dicono, vabbè, chiusa. Dico, non io mi ricordo la postura di, no, non me ne vogliono le signore, ma è capitato quel caso lì, però ce ne sono altri, no? Dove io avevo questa coppia separata da qualche tempo e mi raccontavano alcune cose e io, come sempre avviene, dico, ma scusate, cosa avete detto voi ai vostri figli quando vi siete separati? E questa si mette la mano qui e dice, ma no, in fondo io ho detto, insomma, che il papà si è innamorato di un'altra e ha lasciato la mamma e... Non aggiungo altro, altrimenti vado in una... Però, come dico, ben venga la verità, ma insomma, credetemi, alla fine, piaccia o non piaccia, io non mi ricordo se l'aveva detto un illustre psicologo tanti anni fa, diceva, quando, allora, questo dico io, fare genitori è il mestiere più difficile del mondo. Quando ci si separa, bisognerebbe avere la doppia responsabilità nei confronti dei figli. Non vuol dire, scusatemi, ero un po' emozionata. Non intendo dire bisogna dire la verità, no. Stare attenti, rispondere solo alla domanda dei bambini, rispondere alla domanda, aspettare che la facciano. Rispondere a una domanda del bambino, lui domanda solo delle cose di cui sa già qualcosa. Perché o sennò, crede di sapere. O crede di sapere qualcosa, ma se domanda a lui, si risponde solo a quello che ha domandato. Io faccio sempre un esempio che è quello di dove nascano i bambini, quella roba lì, che una volta metteva in crisi, adesso non mette più in crisi nessuno. Ma io ho detto, non c'è bisogno, da dove vengono i bambini, allora si comincia a parlare della mamma e il papà, si innamorano, il fiore. No, io dico, da dove nascono i bambini? Io rispondo, da una mamma. Te hai mai visto un bambino che non nasce dalla mamma? E fine. E aspetto che mi faccia un'altra domanda, perché il bambino ti domanda dove lui ha già un'incertezza, dove ha già qualcosa, e risponda solo a quello. Perciò non la grazie. Verità. Va bene? No. Sono altri interventi. Elio, ti è mai capitato di vivere la presenza dei genitori, dei nonni? Perché, come diceva anche Don Paolo prima, ci sono degli adulti che non sono del tutto adulti, che dipendono ancora dalla mamma e del papà, anche se hanno 40 anni o 50 anni, e che attribuiscono anche colpe a loro dopo tanti anni, eccetera. Quindi non riescono a crescere proprio da soli, eccetera. E so che in tante famiglie hanno un ruolo, possono avere anche un ruolo di influenza negativa. Quindi, appunto, sono curioso di sapere se anche ti è capitato casi in cui c'è stata questa interferenza. Ma allora, non mi ricordo, forse Elga mi può aiutare o Elia mi può aiutare, quando abbiamo scritto il libro con le vignette di Frangipane, quali sono le cause che portano alla separazione, sono passati 20 anni, se non mi ricordo. E lì, in una delle cause, perché erano una decina, con delle bellissime, simpatiche vignette, c'era la la difficoltà che hanno i figli a staccarsi dalle proprie mamme o dalle famiglie di origini, no? Ma per rispondere più in modo preciso alla tua domanda, ma non voglio spoilerare tutto il libro, insomma. No, io mi ricordo che un giorno mi arriva la telefonata di una signora presentandosi dicendo io sono la mamma di, e so che mio figlio è venuto da voi raccontando questa brutta storia che ha vissuto, che sta vivendo, e non vi dico la verità, era una brutta brutta storia, tradimento, insomma una brutta storia. E la mamma mi chiede, la nonna mamma, no, mi chiede, non voleva difendere il figlio, ma lei sì, era meravigliata che la nuora, chiamiamola ancora così perché non erano ancora separati, avesse chiesto a lei di continuare a far finta che non fosse successo nulla e di accompagnare i bimbi all'asilo, a scuola, insomma a fare la nonna, no? E io ovvio che l'ho ascoltata e l'ho incoraggiata, poi non so come è andata a finire, a dire: signora, guardi, io capisco la sua fatica, capisco la sua sofferenza, anch'io soffrirei come un cane, no, se mi capitasse una roba del genere, però se lei con questo suo modo di comportarsi, no, crede di ferire sua nuora o di far male a sua nuora, mi consenta di dire sbaglia, perché lei così priva i suoi nipoti della sua presenza fondamentale, che è quella di esserci come nonna. Questo può succedere. Poi magari possiamo vedere coppie dove ci sono papà che non hanno mai fatto il papà, o per motivi di lavoro, e a volte, ahimè, anche perché quando abbiamo i figli che girano per casa, noi diamo tutto per scontato, no? Tanto ci sono, no? Io vado avanti con le mie cose, è morta lì. Ho visto papà che con la separazione si sono veramente riscoperti e scoperti bravi papà, ma ho visto anche papà purtroppo che non riusciranno, difficilmente potranno riuscire ad essere papà quando loro sono ancora figli. Credo di essere stato chiaro, non so. Buonasera, faccio una considerazione un po' ampia. In termini di educazione sentimentale proprio, perché storicamente la nostra storia è andata in tutt'altra direzione, nel senso che da Cartesio in poi, 1600 circa, il paradigma diventa la ragione, mentre i sentimenti passano in secondo piano, diventano quasi un qualcosa di debole. E questa stella polare del cogito ergo sum rimane fino alla crisi della modernità, quindi parliamo del Novecento, seconda metà del Novecento, quando si capisce che la ragione non è l'unico punto di riferimento, ma può avere anche dei punti molto deboli, visto che comunque il nucleare può portare all'annientamento del genere umano. Si capisce quindi che noi siamo prima a sentire e poi pensare, e si rivalutano fortemente quelle che sono le emozioni e i sentimenti. Ovviamente questo processo di cambiamento culturale molto forte è avvenuto di recente. Se fosse avvenuto prima, noi avremmo una storia e una maturità dal punto di vista umano e come persone che ci avrebbe consentito di gestire molto meglio le relazioni reciproche all'interno delle famiglie, probabilmente anche con i nostri figli. Mi chiedo, oggi, visto che stanno tornando in termini proprio valoriali i sentimenti come un qualcosa su cui investire, e considerate le esperienze che voi potete avere anche direttamente con l'ASDI, con tutto quello che è stata la storia, c'è traccia di educazione sentimentale? Stiamo investendo in questa direzione, che secondo me sarebbe una strada di prevenzione molto forte, che consentirebbe di far crescere le persone e probabilmente anche di evitare i tanti conflitti, le separazioni che purtroppo avvengono tuttora. Ecco, questa è la domanda che faccio, perché secondo me questo sarebbe un passaggio evolutivo che consentirebbe di migliorare fortemente la situazione e di evitare tutta una serie di disagi. Grazie. Adesso dico una cosa che forse non mi trovate d'accordo, o anche lo stesso Don Paolo magari, così mi viene di getto pensando, ma voi pensate che sia così semplice? È un po' provocatoria, no? pensare a relazionarci ad una relazione, se prima non abbiamo una relazione con noi stessi, e passare sopra le emozioni? Io lo trovo, forse dico parolone, io lo trovo quasi inumano, insomma. Però forse sbaglio, non voglio avere certezze. Purtroppo molte coppie si mettono insieme per motivi sentimentalistici, non per sentimenti autentici. C'è quel bel libro di Francesco Alberoni, Innamoramento e amore, no? L'innamoramento, la cotta, è un movimento, è un qualcosa, un turbinio, eccetera. Ok, vediamo se diventa amore. L'amore vuol dire alzarsi insieme, andare a dormire insieme, camminare insieme, ragionare, sopportarsi. Non sono sposato, ma so che va così perché parlo con tante coppie, no? Supportarsi naturalmente, cioè l'amore è la forma matura dell'innamoramento, quindi e bisogna avere il coraggio di dirgli i sentimenti, no? Lo spiegavo anche giorni fa a un incontro dell'Avuls a Bressanone, dire a qualcuno ti voglio bene, sono contento che esisti, mi fa piacere vederti, ma deve essere sincero, no? E una frasetta che non ricordo l'autrice, so che una donna dice: le persone non si ricorderanno le parole che hai detto, ma come le hai fatte sentire? Se le persone si sentono accolte, ben volute, a casa loro. Io dico il nostro fondatore della ditta, Gesù, no? Gesù si metteva a tavola con la gente, non faceva prediconi dall'altare, da lambone, così via. Andava a pranzo, andava sulle piazze, si rapportava con la gente al mercato, nell'orto degli ulivi, diceva guardateci dei campi, guardate gli uccelli, guardate che bello! Ah! E la gente trovava questo suo legame con la natura e con le persone, bello, costruttivo, pulito. Quindi i sentimenti dobbiamo esprimerli, dobbiamo anche verificare quali sono i nostri sentimenti. No? A volte, ricordo anni fa, parlando con un ragazzino, diceva odio i miei genitori. Vabbè, dico, mi preparo al funerale. Dice, perché? Odiare qualcuno significa augurarsi che muoia. Ma no, scemo, non volevo dire questo. Allora attento, di che ti stanno sulle scatole, che ti sono pesanti, che al momento li detesti e così via, che c'è una tensione con loro, ma non dire che li odi. Tante volte non riusciamo a verbalizzare i sentimenti, no? La rabbia è una cosa pesantissima. La reazione emotiva, no? Se uno mi fa una manovraccia che rischiamo un incidente anche mortale, sa che gli dico? Ma vaffanculo! Che gli devo dire? Oh figliolo, mi hai fatto prendere un brutto spavento. No, lo mando a cagare, lo mando, perché... Ti appoggio l'altra fiancata. No, sì. Poi, per carità, l'ultimo che mi ha strisciato con un camioncino la macchina, siamo scesi e ho detto, ma si è accorto di cosa ha fatto? Ma lei ha invaso la mia corsia. Non dica sciocchezze. Ci sono testimoni dietro di noi, non dica sciocchezze. Vabbè, dai, sì. Cerchiamo di restare umani, di controllarci un po', però dire i sentimenti è importante, dire sono stanco, no? Quando i bambini chiedono qualcosa ai genitori, non è che i genitori hanno sempre la risposta pronta, neanche noi teologi l'abbiamo sempre pronta, no? Una bambina, 8 anni, qualche anno fa mi chiese, Don Paolo, ma perché Gesù è venuto tra noi? Dalle spiegazioni teologiche, cur Deus Homo, secondo Anselmo di Canterbury, eccetera. Però questa domanda mi ha un po' spiazzato, ho detto, ma per dirci che Dio ci vuole bene, ci vuole felici. Mi piace, se n'è andata, grazie. Trovare la risposta giusta, esprimere i sentimenti, saperli chiamare col nome esatto, no? Sono deluso, sono stanco, sono... Siamo umani, diciamo l'umanità, anche i figli hanno bisogno di sentire che mamma, papà, stasera sono stanchi, non hanno voglia di parlare, ma domani ti rispondo a questa domanda, non subito, perché magari subito non siamo della luna giusta. I bambini devono poter dire anch'io in effetti sono stanco e poter confidare anche le loro fatiche, no? La cosa terribile che mi viene in mente è quando i bambini si sentono giudicati e condannati in base alle prestazioni scolastiche. Io quando passo su un ponte in Val di Non penso sempre al ragazzino di 12 anni che si è buttato lì sotto perché aveva paura di venire a casa con la pagella negativa. questo non è il problema del bambino che ha uno scarso rendimento scolastico, questo è il problema dei genitori che dicono se non rendi non vali. Ma stiamo scherzando, questa è una cosa orribile. La nostra civiltà della prestazione a tutti i costi sta creando un sacco di persone con burnout, di persone disassociate e così via. Dobbiamo dire tu ti voglio bene lo stesso, ti strangolerei perché sei pigro, no? Diciamolo. Tu hai delle qualità, ma non ti applichi, non ti metti lì, per forza hai questi risultati, pazienza, dai, andrà meglio la prossima volta, ma impegnati un pochettino. È vero che anche papà prendeva 5 a scuola, inutile dire la balla, no? Papà non ha mai preso un'insufficienza, boom, se poi il figlio scopre... No, adesso non per... perché potremmo stare qui... io credo comunque che dobbiamo veramente imparare a lavorare dentro noi stessi prima, no? Se non ricordo male, perché anch'io perdo un pochino i nomi, era Pascal che diceva l'umanità non è nemmeno capace di chiudersi 5 minuti da sola in una stanza, di rimanere sola 5 minuti in una stanza. Un amico comune che abbiamo io e Don Paul, che dice: se ti ricordi, le parole non mentono, ma è l'uso delle parole, no? che ci aiuta a mentire. Invitava, delle sue, quando teneva le sue conferenze e quant'altro, i presenti a dire, pensando a Pascal, no? Diceva: se avete qualche problema, se sta succedendo qualcosa in famiglia, come magari in questo caso noi è così, io qualche volta lo dico a qualcuno, chiudetevi, si dice chiuditi nella stanza, prega, no? Chiuditi in quella stanza da solo, stacca telefoni, stacca, se ce la fai magari 5 minuti di meditazione, ma se non ce la fai è lo stesso, prendi un foglio di carta e scrivi quello che ti viene in mente, anche le cose più, no? Sì, e dopo, e poi te le tieni per te, non devi farlo vedere a, no? Al tuo partner, al tuo amico, alla tua amica, no, tienitele per te e vedrai che ti saranno di grande, grande aiuto. C'è quella canzone, non mi ricordo l'autore, ma che dice: pensa, prima di parlare pensa, con la testa fra le mani, pensa. Pensare è faticoso, eh? Pensare è faticoso, è meglio agire e fare danni. Ma prima di agire sarebbe bene pensare, riflettere, perché l'uomo ha questa facoltà di nachdenken, denken und auch die Tiere, anche gli animali pensano, ma ragionare, pensare su se stessi, riflettere, guardarsi da sopra e da fuori è importantissimo, perché citando di nuovo tutto, nessuno nasce imbarato. Io ho insegnato tanti anni, ma insegnando ho imparato molto anche dagli studenti e cerco di essere ancora imparabile, perché sennò sarebbe un guaio. No? Bene, voi volete andarvene a casa, anch'io, perché avevamo alle 8 consiglio parrocchiale ad Andriano, e quindi dico grazie sincero a Elio, perché questa volta ha scritto un libro, gli altri erano interessanti, questo è un libro che nella sua tematica tragica raggiunge livelli di poesia, perché veramente è scritto con la testa in sinergia con il cuore. Lo dico, io non spreco parole, no? Perché l'ho letto con vero piacere, no? Ci ho riflettuto sopra molto, mi ha dato alcuni spunti importanti, perché voglio imparare, come dice Jannik Sinner, vorrei diventare una persona migliore. Non sono un campione, una persona migliore. Campione lo sei tot anni, ma se poi sei un asino, asino resti, con 100 medaglie e trofei, ma asino resti. Se invece ti serve questa esperienza delle vittorie e sconfitte, bene. Quindi un mega applauso a Elio. Io ringrazio voi, ringrazio naturalmente, mi sento di dire, l'amico fraterno, insomma, Don Paolo Renner, che ci legano tante cose, anche commoventi, e così vorrei lasciarvi con invitandovi a leggere un capitolo, lo leggerete tutto, no? Ma è un capitolo molto particolare che io ho scritto, credo sia l'ultimo capitolo della prima parte. Il titolo dice tante cose, poi non vi spiego perché, altrimenti poi non lo leggete. Il titolo è La luce tra i tavoli. Quando si dice luce, si dicono tante cose. Penso, grazie, grazie, grazie della vostra pazienza e del vostro, con tanti di voi, delle vostre preziose amicizie. E mi fermo qua. Grazie. E proprio per farvi venire voglia di leggerlo, a me piace di più quell'immagine dell'albero, che è molto sapienziale. E per questa sera Elio scriverà delle dediche e firmerà i volumi gratis. Quindi buona serata a tutti e buona lettura soprattutto.